Quando tutto non va come vorrei, quando mi hanno detto non ce la farai, quante lotte in casa con i miei, quando prendi le tue cose, sbatti la porta e te ne vai. Infrangere la barriera del suono, perdere serve a crescere e diventare un uomo. Adesso mi perdono tanti sbagli, o non ti godrai traguardi. Dicevano dai, come farai senza il diploma? Ci pensi mai? Che pure la vita è un'altra scuola, è formidabile. Ne sta parlando la TV, han trovato l'acqua su Marte. Tutto è possibile. La notte in giro selvaggi gli amici miei, quando su una cabrio sembra di volare. Ci hanno sbattuto fuori con un 6. La scuola è tutta da dimenticare, per chi come noi viaggia più veloce, fuori dai limiti, dalle tue logiche, dalle illusioni, dalle convenzioni, dai tuoi sondaggi sulle generazioni. Oh no, ah! Hai ragione, frate, bella torme. Ricordi la birra, il centro sociale, le bombe. Nella città piena di luci, noi tra le ombre. Senza sonno, senza soldi, senza SUV, senza donne. A Marcor, tra i punk a rappare in console. Non andavamo via come i graffiti sul metro. Varese era New Jersey, Milano, New York. Vedevamo la realtà virtuale prima di Oculus Go. Cazzate secchi, non avessi consumato le mie prime Jordan a fare canestri nei parchetti, le rivenderei per 5k a sti stronzetti, servi del reselling. Noi altri esempi, coi fan d'altri tempi, che ci chiedevano un freestyle, non un selfie, altro che sexting. Ho perso la verginità con sotto un pezzo di Mariah Carey. Dicevano dai, come farai senza il diploma? Ci pensi mai? Che poi la vita è un'altra scuola, è formidabile. Ne sta parlando la TV, han trovato l'acqua su Marte. Tutto è possibile, allora è tutto possibile. Allora è tutto possibile. Allora è tutto possibile. Quando non va come vorrei, allora devo accelerare. Hai dimenticato chi sei, che casino riuscire a cambiare. Se ora ripenso ai miei, quanti errori devo farmi per tornare. Mi dicevano dai, come farai senza il diploma? Ci pensi mai? Che poi la vita è un'altra scuola, è formidabile. Ne sta parlando la TV, han trovato